A due passi dal porto io scelgo la mia strada, raga, conduco la mia nave in alto mare, senza scialuppe, senza voglia di tornare. Seguo la corrente, questa volta non ho voglia di lottare, non ho voglia di ascoltare. Fai di te la fiducia e dimmi tu cosa rimane, se penso sempre al peggio perché il meglio mi fa stare male. Cambiare le cose che tu manco te ne accorgi, diverso ciò che avevi ieri da ciò che è oggi. Ehi, do di testa questa gente la calpesta e ti calpesta, con i miei fidati puzza tendiamo la tua testa. Parlo di chi mi vuole sotto e più sotto, io col cazzo che ci torno ci sono già stato troppo. Vorrei cambiare ma non posso, non posso. Ogni volta che ci provo poi mi crolla il mondo addosso. Porto sui volti segni di una vita da sconvolto. Sì, ma come sempre due passi da porto. Time is better than we, better on its own. Hey, to the friends that are in shame. Come sempre due passi da porto. Like a rainbow in the sky, shining on me. Sopravvento troppo spesso sul buon senso. Poche le persone che mi spiace di aver perso. Per le merde non ho tempo, pure se non faccio un cazzo. Due passi dal porto, nell'agenzia del buff. Perché forse ciò che trovi non è quello che cercavi. Ci hai provato insoddisfatto e quindi torni dai tuoi cari. Miro in abbandono, appunto fisso il mio obiettivo. Miro il mio traguardo e tutto il resto è relativo. Qualcuno salvissimo che da solo non ne esce. Crampi alle stomaco per le storie indigeste. Funesti le atmosfere di queste ultime sere. Faccio appena uscire più dal museo delle cere. Disoriento la tua bussola e tu perdi la rotta. Colpito incrociatore affondo la tua flotta. Un flow che scotta, aspirante e piromane, che ti basta il culo più di mille bombe atomiche. Time is better than we, better on its own. Hey, to the friends that are fashion from the summer. Love is there, love me. Like the rainbow.